C'è un tema su cui Bush ha bisogno di un po' di appoggio dagli europei, o meglio, di non trovarsi di fronte a un gruppo compatto di oppositori, che è la questione di Kyoto, l'ambiente, il protocollo sull'ambiente, che per Bush significa soprattutto un mostro da non applicare, un mostro da sconfiggere, perché Kyoto poi, anche con tutti i suoi limiti, metterebbe dei vincoli lenti, ma per Bush sono delle vere e proprie manette, alle imprese, soprattutto alle grandi imprese del settore dell'energia. Che cosa è successo nelle ultime ore? Che dal Ministero degli Esteri, diciamo così, è partita questa iniziativa di ricerca comune su alcuni progetti che riguardano lo studio dei cambiamenti climatici, eccetera, eccetera. Un po' di soldi pubblici, a questo pubblici e privati, alla ricerca su un tema importante. Ovviamente questo in un contesto in cui la Gran Bretagna e Tony Blair gli ha detto di no. Se c'è qualcuno tra gli europei che è disposto a fare progetti di questo tipo, ecco che c'è in nuce, come dire, non la rottura di un fronte comune dell'Europa, perché poi le dichiarazioni ufficiali che fa il governo italiano in queste ore, da Berlusconi, anche Matteoli, il ministro dell'ambiente, sono tutte di rispetto dell'accordo di Kyoto e di sostegno della sua applicazione, eccetera, eccetera. Però lì si apre una questione per cui, a livello diplomatico, anche per il governo italiano deve assumere questa funzione, diciamo così, in quanto paese ospitante, ma soprattutto anche poi per la tradizione politica del nostro governo e per quello che abbiamo sentito da un mese a questa parte, un po' con un orecchio sempre più attento di quanto non facciano i tedeschi e i francesi a ciò che arriva dagli Stati Uniti. E allora una situazione di questo tipo è una situazione interessante, perché dà questa idea, cioè di questa particolare attenzione nel momento in cui Bush è isolato. Scusate, devo interrompere Lele Liguori e questo collegamento, perché abbiamo urgenza di collegarci con Piazza Dante, dove ci sono stati degli scontri e sembra che forse, insomma, c'è stata una pressione contro la zona rossa. C'è Antonella Mascali per noi. Eccomi, allora è successo questo: un gruppo di manifestanti ha aperto la porta della grata che divide la piazza Dante, che è zona gialla, dalla piazza rossa, che è al di là delle grate, perché pressando in continuazione, perché molti dimostranti sono appiccicati alla grata, sono riusciti a romperla. I poliziotti hanno aperto gli idranti, ma hanno anche spruzzato degli spray al peperoncino con corticanti che fanno malissimo. Infatti molti dimostranti che se li sono presi in faccia e sul corpo hanno avuto dei problemi proprio agli occhi, niente di grave, passa dopo poco. In contemporanea altri gruppi di manifestanti, mentre i poliziotti aprivano gli idranti e sparavano questi spray al peperoncino, lanciavano i famosi specchi, quelli che sono stati distribuiti per fare il gioco di riflessi, al di là delle Antonella grate. Scusa, ti fermo un attimo.